24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la riunione a Bruxelles dell'Eurogruppo che deve accelerare nei negoziati sul trattato salva euro, Grecia osservata speciale. A 24 ore in Europa intervista esclusiva al vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani che afferma l'Europa deve avere un'agenzia di rating indipendente. Intanto Atene dichiara guerra agli evasori fiscali pubblicandone una lista online. Infine sbarca in Francia il popolare blog di Huffington Post. Giornata cruciale per l'Europa con la riunione a Bruxelles dell'Eurogruppo. Per l'Italia partecipa il premier Mario Monti, giunto in Belgio poco dopo pranzo. Il momento è critico, oltre a chiudere i negoziati sul trattato salva euro, si sta decidendo il destino della Grecia, che sta trattando la ristrutturazione del proprio debito con le principali banche internazionali. Il rischio default resta all'orizzonte. Osservate speciali pure Italia e Spagna. Roma ha fatto progressi importanti dall'ultimo Eurogruppo, sia nel consolidamento dei conti, sia sulle riforme strutturali per la crescita, così la Commissione Europea. In particolare, Bruxelles ricorda la manovra ambiziosa varata a dicembre dal governo Monti e le riforme strutturali del 20 gennaio, ma conclude la Commissione, il monitoraggio sulle riforme in Italia continua. Sulla Grecia il commissario all'economia Olli Rehn si è detto fiducioso per una soluzione entro questa settimana. Sempre Rehn ha aggiunto che è indispensabile rafforzare la barriera protettiva contro la crisi. Un augurio subito gelato dal ministro austriaco delle finanze Maria Fekta. Non vi è alcuna possibilità di aumentare la capacità del fondo salva stati IFSF. Più ambigua la posizione tedesca. Per la cancelliera Angela Merkel la priorità è l'attuazione dell'accordo sul fondo salva stati permanente che deve diventare operativo più velocemente. Intanto i mercati guardano con fiducia agli ultimi sviluppi, chiusura positiva per le borse europee, il FTSE MIB ha guadagnato l'1,84%, crolla lo spread tra titoli italiani e tedeschi, ora di poco superiore ai 400 punti. Sentiamo. Altra chiusura positiva per le borse europee in attesa dell'accordo tra il governo greco e i creditori privati sulla ristrutturazione del debito e dell'esito della riunione dell'Eurogruppo. Milano è stata la piazza migliore con il FTSE MIB che ha guadagnato l'1,76% dopo il balzo di oltre il 4% registrato la scorsa settimana. Piazza Affari ha beneficiato del rally delle banche grazie all'apprezzamento dei titoli di Stato italiani con lo spread tra BTP e Bund tedeschi sceso verso quota 400 punti base e alle indiscrezioni sull'ammorbidimento delle regole di Basilea 3. La migliore è stata MPS, più 14%, che ha escluso possibili aumenti di capitale nel piano di rafforzamento patrimoniale. Tra gli industriali continua la corsa di Finmeccanica, più 6%, che ha recuperato oltre il 34% dai minimi di fine dicembre. Per contro, chiuso in negativo la controllata Ansaldo STS, meno 1,3%, che ha risentito negativamente delle indiscrezioni sullo stop alla vendita dell'altra controllata di Finmeccanica, Ansaldo Breda. Male Snam, meno 1%. Dopo la conferma nel decreto liberalizzazioni della separazione proprietaria da Eni, più 0,64%. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani ha affermato in un'intervista al quotidiano spagnolo El País che le agenzie di rating lavorano in favore del dollaro attraverso la continua degradazione del voto sul debito dei paesi dell'Eurozona. E ieri nell'ambito della conferenza internazionale Driving Sustainability di Pirelli si è detto a favore di un'agenzia europea indipendente. Sentiamolo nell'intervista esclusiva al microfono di Anna Marino. C'è già una proposta della Commissione approvata per mettere dei paletti alle agenzie di rating. Io credo che si debba lavorare, la mia posizione è a favore di un'agenzia di rating europea che permetta di fare delle analisi trasparenti al di sopra delle parti, cioè non è che chi fa le analisi è pagato dall'analizzato, perché se chi fa le analisi è pagato dall'analizzato diventa sempre un po' difficile avere la verità. Le agenzie di rating non hanno certamente sempre indovinato, quindi la loro affidabilità lascia molto a desiderare. E peraltro non mi convincono anche i tempi con i quali loro emettono i loro verdetti. E questo non significa che noi dobbiamo nascondere la verità, però un conto è dire la verità, fare un'analisi seria della situazione economica finanziaria, un conto è utilizzare la possibilità di dare giudizi per fini diversi. Io credo che sia giusto avere una agenzia europea di rating, quantomeno prima di avere un'agenzia europea di rating indipendente, porre dei paletti al lavoro delle attuali. Intanto il governo greco pubblica la lista della vergogna che mette alla berlina gli evasori fiscali ellenici. Servizio. Il premier tecnico Lucas Papademos ha messo su internet l'elenco di 4.152 evasori fiscali greci, che complessivamente devono alle casse pubbliche 15 miliardi di euro. Il passo compiuto, cui danno particolare rilievo i quotidiani tedeschi, avviene a poche ore dall'avvio del vertice UE dei ministri delle finanze dell'Eurogruppo, che dovrà dare il via al secondo piano d'aiuto ad Atene da 130 miliardi di euro. Il ministro delle finanze, Vangelos Venizelos, parla di lista della vergogna, ma pare difficile, secondo gli esperti, nel migliore dei casi, recuperare più di un quinto della somma totale. A marzo Atene deve restituire 15 milioni di euro ai creditori, ma ha solo in cassa 11 miliardi. Come fare? Se ci fosse stata una lotta all'evasione migliore, forse Atene non sarebbe in queste condizioni. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia, Spagna e Grecia sono i mercati con la maggior possibilità di trovare aziende insolventi, ne parla Il Sole 24 Ore. Per le imprese italiane aumenta la possibilità di incappare in un partner commerciale a rischio di insolvenza. Quest'anno il pericolo si annida principalmente in quei mercati che rientrano nell'area del Mediterraneo, che comprende Italia, Spagna e Grecia. In questa regione si registrerà il maggior incremento di aziende che si dichiareranno insolventi. A dirlo è l'edizione 2012 dell'Economic Outlook, realizzato dall'ufficio studi di Euler Hermes, società del gruppo Allianz specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali. La situazione migliora, ma resta pur sempre grave nell'eurozona. Non mancano poi altri paesi in cui la casistica delle imprese che non sono in grado di far fronte ai loro debiti diminuisce. Enrico Netti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato della multinazionale Pirelli, interviene nel dibattito sulla crescita. La crescita è figlia dell'Europa, dice in un'intervista a Gianfranco Fabi. Sentiamo. La crescita è figlia di una crescita europea. Non si può chiedere, secondo me, a questo governo di dare la crescita al paese. Si può chiedere a questo governo e all'Europa di muoversi tutti insieme perché l'Europa torni a essere un'area competitiva e che cresce. Il sistema sociale italiano non può essere diverso dai più avanzati sistemi sociali europei. Noi lavoriamo in tutti i paesi d'Europa, vediamo le evoluzioni che ci sono state altrove, vediamo anche dei segnali positivi in Italia. Si tratta di non fare battaglie di principio. Lavoriamo sulla realtà, non lavoriamo sugli slogan. Io credo che la fiducia è certamente un motore di sviluppo. Perché la fiducia abbia una sua base solida, bisogna ci siano dei fatti. Qui i fatti non possono venire solo dall'Italia, devono venire dall'Europa. Nigeria sull'orlo della guerra civile, l'Europa è preoccupata. A 48 ore dalla sanguinosa notte di bombe a Kano, dove non è ancora terminato il conteggio dei morti, saliti ufficialmente a 178, nuove vittime nel confinante stato di Bauchi, sempre nel nord. Si tratta di 8 civili, secondo alcuni testimoni tutti cristiani, un poliziotto e un soldato. Kano è una città deserta, gli uffici sono chiusi, i negozi sbarrati. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato il presidente Jonathan, cristiano originario del sud. Ha ispezionato commissariati e stazioni di polizia devastati e promesso di rafforzare le misure di sicurezza. Poco più tardi ha riferito che sono stati arrestati presunti membri della setta Boko Haram. Li fermeremo, le sue parole, ma l'ottimismo di Jonathan si scontra con le accuse di avere finora sottovalutato la crisi che sta colpendo il nord del paese, sempre più impoverito a fronte dell'arricchimento del sud, dove operano le multinazionali del petrolio. La situazione preoccupa l'Unione Africana, ma anche l'Unione Europea e le Nazioni Unite. La responsabile della politica estera europea, Catherine Ashton, ha offerto aiuto al governo di Abuja. Il segretario di Stato ONU, Ban Ki-moon, ha auspicato inchieste rapide e immediate. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sbarca in Francia l'Huffington Post, il più potente blog del mondo. I primi post furono lanciati in rete il 9 maggio del 2005. A distanza di quasi 7 anni, l'Huffington Post conta 36 milioni di lettori al mese. Il blog più potente del mondo viene lanciato oggi in Francia, ultima tappa di una sorta di franchising che conta già le versioni inglese e canadese, quella spagnola online da marzo e quella italiana entro la fine di quest'anno.